che puoi sentir la voce mia dal cielo. Aiutami, l'unico mio amore se ne va da me. Io dedico il mio dolore a te per chiederti che torni. Se sola morirei, lo sai. Aiutami, anche se puoi dirmi che non prego mai. Perdonami, fa che ritorni. Sola morirei, lo sai.